si può prendere quel microfono, è bellino. Sì, ma non ho avuto voce questa saletta. Sì, a questa fece il numero che hanno fatto. Un anno. C'è un sacco di anni questo. Questa saletta, bravo, però, 90 euro. Va bene, va bene. Guardando a fine più dentro. Dobbiamo portarti la manica del microfono. Grazie Giampaolo, adesso che il microfono balla la 48 venato, viene un'altra banca, ma vengono microfoni a rotella, originale Colt. Ma se dici per il tempo 150 euro cada uno. Vai, fatta una cagata, vai, se non ti portiamo un compagno la mi ci cessa. Non è poco, c'è un indice, parazione. Sì, non è così, costano così, no. Per quella radio, intanto quel conto non può attaccare solo nel conto, no, perché c'ha un circuito quel microfono, capito? Non lo puoi attaccare in un altro apparecchio normale. Ah, non ci, vabbè. C'è da mandare a Cagliari lunedì mattina, passo a peso, glielo compro io, c'è un po' il microfono per mettere una quanto. Che ha pagato. Comunque quellino va saletta? Sì, una forma particolare, bisogna vedere se va bene. Bisogna vedere sempre se va bene, capisci? Bisogna vedere sempre se va bene. Vendo gruppi affinati, bisogna partire. Vabbè. È vero che c'è un po' di roba, per cui c'è un alimentatore. E tu sei per un indirizzo, tanto della CEP. Vedi, 150 per pesci. Aspetta che do un'occhiata a questo alimentatore della CEP che mi interessa. Ancora in garanzia, 1300 euro le vuole, costa 1800 l'uovo, 150 ampere, e quello è bello, eh. Un affare, un affare. Ma Giovanni, 1800 euro, vuoi smarco anche 5. Già è fare, ce l'hanno anche l'alimentatore. Ma è il sito che non ho capito. No, per essere trovati per l'altro ragazzo. Lineari.shop, e già c'è cosa interessante, ma cazzo, non è proprio questo. Trovo avanti, 1800 euro, c'è un alimentatore a 1800 euro. Cazzo, cos'è? Non è messo da via. Vabbè, lineari.shop, Rami, avanti cazzo. Aspettate che sono un computer, comunque stai tranquillo che già non so senza microfoni di linea. Ok, adesso voglio vedere qui lineari.shop e se riesce a finire. E vabbè, c'è qualche uno pigliato male, ma la radio, ok. Non so, quando si vende è un casino comprare. Giustamente uno non investe 1300 euro per un alimentatore, ma voi radioamatori investite sulla radio, però ci vogliono anche gli alimentatori buoni. Radio. Dimmi Vanni, vabbè alimentatori cazzo, ma io ho alimentatori ne ho quattro, cioè c'è quello della chiude, i due che mi servono per alimentare la radio, la 35 ampere, cazzo, vabbè 350 ampere, è della CEP, non si discute, però 1300 euro, non lo comprerei mai, dimmi Vanni. Altro, è possibile. Fammi, dimmi linea per linea, ma linea per linea, fammi lo feeling di come è scritto. È possibile, no? Altro. Linea, Lima, India, novembre, ecco, ok, Alfa Romeo, ecco, linea, shop, Sierra, Hotel Santo come piscita. lineare.shop shop Sierra Notte della Moscato e Pipa, capite? C'è una cosa interessante, molti baracchini, però visto c'è anche qualche altra cosa interessante. Diciamo che è più un sito per Cibisa, non è proprio per gli amatori. Ora sicuro che qualcuno c'è che magari ce lo mette in mezzo, ma diciamo che la maggior parte è per Cibisa. No, visto ci siamo anche degli amplificatori della Bias, ci siamo anche noi. Ad esempio qua c'è un 1200, un lineare tentativo, un 1200 come nuovo, 700 euro, un finalito Shiba, questo fa 0,30, non butto mai già, questo le dai 10 watt, è una HF, ti distrugge quando c'è, quindi cioè, ci sono cose, ma se uno le va bene può anche comprare, capito? È positivo, vabbè, già costa poco, daremo un sguardo. Sì, ma sai che devo metterlo così in quel lineare, se non che c'hai un trasformatore da 220 che trasforma a 24 o a 12 e ci vuole l'alimentatore non 25 ampere, no? Perché 25 ampere ma quello vuole molto, chissà. No, beh, io c'ho quello del PS50, del 50 ampere, già lo guardia, già. Ho provato quello di Mario Papartari, l'ho tenuto un bel po' anni fa. Lo usavo con l'alimentatore da 50 ampere. C'è una buona batteria di macchina. Buonasera Giovanotti, dice Giovanotti. Non c'è la gente, c'è una figlia in cui non mi interessa. Qua non c'è più niente, 150 euro, 130 euro, ma vediamo se c'è qualche altra cosa. Vabbè. E tu cara, niente hai trovato? Io trovo anche un microfono, per volta 130 euro che ce l'ho per giro identico, ce l'ho quel microfono. Grazie. anche andare bene, sono 70 euro, qua c'è il vetro lineare della REM, 351, 200 watt, M testato, 80 euro, va bene lo stesso, cioè queste cosine così si possono anche comprare. Magnum S45 HP, Omega Force Magnum, ecco qua, questo è quello che c'è sempre. L'Omega Force della Magnum S45 HP, 250 euro, usato da 2 mesi, è 47, bim bum bam, tricche sì e tricche là. 250 euro, un Omega Force, 250 euro per l'Omega Force. 50 euro si viaggia di 240, cioè io ragiono con la mia testa, poi ognuno ragiona con la sua, non già mi interessa. Il lineare ha 777, 80 euro, 150 watt, va bene, qui a te di Sardegna, cerco CB Magnum S9, masculo, a Domenico, ma no, già devi di qua, Domenico. Cerco CB Magnum S9 masculo, se vuoi ti do la femmina. Ce n'è roba interessante, no? Ce n'è. Io l'altro giorno sono entrato giù subito, grazie, poi ho 140, che paura. Non vuole visto, cra, col microfono parlare 450 euro, ma lì c'è paura, il gabbo blu. Quello che sta parlando adesso con il corpo normale lo usa, sta dando l'MC60 più il 140 nuovo perché l'ho visto 350 euro, quello non fa perché 300 euro ci vorrebbe anche la radio, altre 100 euro mi deve dare minimo per l'MC60 perché io meno di 100 euro l'MC60 non lo ho, per dire se dovessi venderlo io, quindi non fa 350 euro con l'MC60 non fa. Sì, ma questo 450 con microfono normale. E io penso, non so, è un affare, ti può interessare, è un affare sì. Ma c'è contatto Antonello, sta cercando una radio così per ricevere come ricevitore. Guarda, per comprare un ricevitore a 300 euro, comprate un ricevitore trasmettitore, quando ne hai voglia lo usi. Su questo non ho tutti e tutti. Io cerco di consigliare come hanno consigliato a me, poi ripeto, ognuno fa quello che piace. Anziché spendere 300 euro per un ricevitore, ne spendi 350, c'è il ricevitore, con il microfono a tavola e tutto. Positivo. Comunque l'altro giorno qua stavo ascoltando quell'argentino che stava arrivando qua, che sta arrivando a 2-3 da QRM. Ah sì, vabbè, io ho l'antenna terra, capito, quindi non è che posso fare miracoli, adesso per me non mi ha chiamato il dottore, quindi dopo le staffette finisco il lavoro che devo fare. E quindi a me mi arrivava così, infatti non ci ho manco provato a collegarlo perché non, tanto non ci arrivavo, quando i segnali sono così bassi non c'è niente da fare. Adesso poi quando mettiamo sull'antenna adesso vediamo come funziona tutto. Beh, mezzo finocchio. Vabbè, tutto un baraguro. Già ti sei fatto vivo, eh? Ma la malattia te ne vai, potevi anche via e a me lo auguri di Natale, maledetto. Non sono passato lì, stavo lavorando, Giuseppe, ciao, buonasera, mi sentite? Adesso io ci passerò prima di fine anno, ok? C'è Massimiliano, è già nei capi due, l'annino avanti. Ciao Massimiliano, scusate, sono entrato così in brusco, comunque era per prendere un po' per il culo a Claudio. Già me ne sono accorto. Va bene, va bene. Chi c'era, Claudio? Vannino? Sì, Vannino che era al PC che sta controllando, controllando se trova qualcosa di buono. Oggi riposo totale e domani riposo totale. Avanti, Capra, Capri. Ok, grazie per carità, non sa cosa roba, ogni tanto mi appare uno e appare no, qualcosa, diciamo, per chi interessa gli altri, cioè, però i preti sono come quelli del farmacista, cioè, perché ho visto degli apparati proprio a prezzi allucinanti. Ciao Giuseppe, buonasera. Apri due, ti super cordializza e ti rimetti il cambio e auguroni, Giulio, riprendi. Yeah, ciao già, ben sentito anche a te, auguroni, anche in ritardo però, scusa se non ci siamo, non ci siamo visti, là. Auguroni anche a te. Perfetto Giulio, c'è sempre tempo, tutto gennaio valgono, hai capito che occupare, l'importante è la salute. Massimiliano, sfogliando, sai, c'è qualcosa che ti interessa, io sto sfogliando, mi facciamo affare. Ma io l'ho detto poco fa che io sono arrivato, non devo comprare altro, anzi, c'ho almeno due adattori che mi la metto in piedi proprio, non me ne frega più nulla di comprare, di fare, io e i miei ce li ho, mi partono e mi avanzano. Sto scherzando, no, anche io non ho una volta, magari, trovi qualcosa e poco che ti manca, però che non vedi, ma io grosso modo di quello che ho visto per il momento non mi interessa nulla. Riprendi tra. Ehi, ehi, io sto tornando alla pagina iniziale e sto anche scendo perché non mi interessa, comunque me l'ho messo sui preferiti, ma usciamo, usciamo, no. Non problema, non problema, va bene. Cosa stavo dicendo? È lì tutto bene, Giuseppe, tutto a posto. Ehi, ehi, tutto a posto, tutto a posto. Mi è arrivato il regalo che mi ha mandato mia sorellina dall'Australia, il telefonino nuovo, e sono contento, là. Ehi, non sei compagno di mondezza. Ce l'hai nuovo e dei ciccia, rimane nuovo almeno. Cappa, anche loro lo prendono sul fatto del conto, no, del contratto, fanno il contratto e un periodo di anni poi il telefono rimane loro e ne fanno quello che vogliono. Ha preso, me l'ha regalato, quando ci vediamo verticale già te lo faccio vedere. Non lo so usare, Giuse. Ah? Lo so usare. Sì, sto incominciando a impararlo. Piano piano sto incominciando a conoscere quel telefono. Ah, cos'è? Ma non sono quelli che si aggettano. Ma perché nel fustino del basso stanno dando il Nokia? No, no, non è un Nokia, questo è un coso, uno tipo tablet, hai capito? Cos'è un tavolo? No, uno dello, con le cose che tocchi nel dito escono tutte quante le figure, capito? Le immagini. C'è anche la pennina, a me. Non lo so, Nintendo. Ma non è Nintendo, no, tanto la puttina che non sarebbe che costa una barca di soldi questo. Ma può costare anche milioni, cosa entra? Ma ci scrive, oh. Ciao Claudio. Ciao Claudio. Ehi, bambolina. Ma che stai facendo? Ciao, che stai facendo? Dillo se stai facendo una brava. E stai facendo una brava. Non sai. Ma tu se stai facendo una brava. Ah, riuscire. sarà quello di compiere la cena figlio. Lui gli ha detto, va bene. Già va bene, già va bene. Allora va bene, ha avuto la diserventi. Io che stavo guardando qua un coso che è un pace, non so se l'hai notato, che si assomiglia a Rolex, non so se l'hai notato quello. Io l'ho notato, però io oramai. Oramai la malinconia l'ho buttato la spugna io poi con la radio già, ma non mi va. Ti ho detto una cosa che mi deve sapere di tutto, mi raccomando per Rolex. Non deve mai uscire da lì, deve rimanere lì, usalo, fai quello che vuoi, però deve rimanere lì. Perché mi sono affidato alla tua, come si dice, alla tua serietà, diciamo così. So che tu le cose non lo fai, che le tieni, perché c'è proprio gente attaccata che lo voleva, fare dei cambi anche interessanti, no? Non ne ho fatto, ma intanto lo so che poi lo dai, ma lo vendere, lo faccio, preferito parlare a te, abbiamo fatto dei cambi, sono contento io, sei contento tu, e va bene così. L'importante è che rimanga sempre lì e che non vada mai da nessuna parte con la radio, perché è una radio che c'ha nel buchi, molto buchi, però la signora è la sua ed è veramente perfetta, io la usavo pochissima, perché poi alla fine con tutti i telefonati, non mi comprendevo più un accidente, tutto pieno di microfoni, tutto incasinato, invece qua ha fatto pulizia, solo radio a casa, basta, niente baracchini, tutti fuori dalle basse. Adesso aspetto Giulio che mi dia quest'altro pezzo del lavoro, e poi mettiamo ancora più in ordine, così mi metto anche quella radio americana, faccio la sezione dei parolari, e boh, abbiamo fatto. Stavo dicendo qua di quello, non ti preoccupare che non esce, a meno che non sia morto io, però quando muoio io venite voi a prenderli, perché i miei figli non interessano, non voglio io ai miei figli di prendere niente, non voglio che faccia la fine dei baracchini di Mario Mao, perché io ci ho messo, l'ho coltivato, cosa faccio perché non sai, mi sono stato d'accordo per comprarli, loro non sono passati, voglio che vadano anche a regalo in mano di gente di collezionisti, però perché i soldi non mi interessano, hai capito? E io ci ho messo l'anno a collezionare, non voglio che facciano fine brutta le radio. Non lasci che si appassionino i miei nipoti, se ne capiscono domani, e li regalo tutti, però a darli come si sono a vendere, no, assolutamente no, perché non sono cose, ci ho messo anni a vedere queste cose. Ok, perfetto, quindi rilancio a Giuseppe, riprendi. Claudio, quella questione che avevamo parlato, chi è che gliela avevi? Un attimino, ciao Peluce, ti vedi di nuovo, già ti faccio entrare, dai, sono in compagnia di Claudio, di Giuseppe, di Bulldozer, e Vannino mi sembra che c'era anche, ok, già ti facciamo entrare, dai, avanti e poi vai per chi vuoi. Ti ho rilanciato, poi per chi vuoi c'è Claudio, ti ho detto c'è Bulldozer, c'è Giuseppe Leoncino, poi per chi vuoi. senti. Ufficiale, mi porti anche tu più di me. Con quei minuti salutano tutti e compreso io. Ok, perfetto, Pinù, mettiti a posto, Tonci, scommetto che carne non mi hai mangiato, cosa dici? E tanto Pinù ha fatto il fornimento da Terabiese, non fa problema. Ok, perfetto, allora, mi metto il tutto a Massimiliano, capri due ti rimetti il cambio, vai. Positivo, no, volevo sapere se Pinuccetto mi ascoltava e basta. Positivo, ciao Pinuccetto, anche a te mi ascoltate, tanti auguri, buon Natale, va. Positivo, va. Adesso, come da io cambio radio, va, claro, se prendi tu e cambio radio, va, era giusto per salutare Pinuccetto. Datemi 10 minuti che ero qua col mio vicino, 2 secondi che avevo ordinato della roba, riprendo subito male i quadri. Ok, perfetto. Ok. Giuseppe, cosa sei combinato di bello? Tutto bene? Nulla di positivo già, nulla di positivo, aspettando che si sblocchi qualcosa. Speriamo bene, al prossimo anno speriamo sia delle migliori, che resta qualcosa di positivo sul lavoro e su tutto. Adesso lunedì sera mi hanno chiamato per fare una giornata di lavoro, così sperando, è detto sempre, chi lavora la notte di Capodanno, la vigilia di Capodanno lavora tutto l'anno, speriamo. Me lo auguro di cuore, Giuseppe, veramente di cuore, ti ho detto, gira, l'ho mettuto io anche nelle discoteche di questa roba qui, piglia tutto quello che ti capita per il momento, lo devi prendere al volo, Giuseppe, poi vedrai che qualche cosa si sbloccherà, io ripeto, lavoro, sto lavorando, mi però sono un po' con un sacco di tasse e hai capito, non è che mi rimane molto, mi salvo perché non pago l'affitto e c'ho il Puma anche fermo. Hai capito, fermato perché in inverno non si batte un chiodo, adesso ho pagato anche metà dell'assicurazione, l'ho bloccata, però metà l'ho dovuta pagare, hai capito, devo metterci anche due gomme, ci devo, e sto, capito, tentando di fare sacrifici per avere l'estate pronto, per non crearmi problemi, però diciamo di usare, guadagno è zero. Non utilizzerò mai soldi, purtroppo, ma l'importante è che ogni giorno ce ne passi una e che siamo in buona salute. Ok, Pino, riprendi. No, Pino, una ventina, una ventina, prendi, aspetta, e lo faccio come ieri, un mattino, Per me va bene così anche, Pino, per andare in pinta medami, così va bene, mi ascolti così. Va bene anche a mezzo di notte, mi combina la bella Pinucci, ti racconto di scena della Fainé e per parlare con suo bisogno, con sua moto, vabbè, diciamo la bicchio, lui ha consegnato una terra domino e non da subacco di tutto quello che è preciso e in baglia Pinucci e ha propagato un attimo. Andavo dove volevo, sono un uomo e ho girato di fare di questa cosa, e poi questa raffinza da Fainé. E vuole mi ha imbagliato, guarda, ha provato a camminare, ha provato a mandicare, ha portato il primo guidore, ha portato il tocco da fare. e dici uno voi la cattiva, ma che devo andare a portare a fede, ma qui sta sotto il zero, quando quello buonato del buonacchino venare. Ha tornato telefono era lì la fare fanare, telefono da una chiedo uno ora da chi lavora io, ma va bene, poi è stato a fondi, si può scorrere su un lettone, e gai, ma babbo mi l'ha raccontato, oggi può prendere babbo, giù un mese fisciato, ma che non ha detto che mandicare il culo non ci deve avvisare, e beh, se tu mi deve avvisare, fa sai che io ho urinato perché è una razzista, e quindi ha pure mi impara, però non è tornato, mi sono detto, se adesso era raggiato voi, su, mi sa, i suoi uomini, i savi tenia, o noi di monio, mi prendi giù le. Io riprendo perché è arrivata gente, dai, vi devo lasciare, vi auguro una buona serata a tutti, dai, ci sentiamo alle prossime, se coincide, se non ci sentiamo, auguroni di buon inizio dell'anno, cambio. Ok, ciao Giuseppe, molti auguri e in bocca al lupo, tieni forte, tieni forte e vedrai che, come hai detto tu, ti dovevi tenere forte. Massimiliano, ci sei? Sì, ci sono. Ciao Giuseppe, tanto auguri, buona tappa, di buon anno. Buon correttivo, va, ci sentiamo le buce, comunque. C'è domani, c'è dopodomani, riprendi quei... Già siamo in radio, qualcuno già lo troverà sempre là. Ok, però mi sa che c'era, capito, che c'era anche coso, Giampaolo, la portatore, perché l'abbiamo mollato un po' così. Giampaolo, ci sei ancora? Era un po' così. Allora, niente, io ho attaccato l'altra radio per salutare il Pinocchetto e niente, con questa non mi ascolta, pazienza, va. Ma come lo dire, riprendi i capi. Ok, perfetto, no, io diciamo a Gianluca non li ho rilanciato perché non lo sentivo stasera, quindi ecco perché mi è sfuggito, però in mente mia ho detto qua c'era qualche numero, adesso tornatela, sì, Mannino che poi era computer per qualche cosa, però c'era qua la testa, mi è uscita perché non ho avuto modo di ascoltarlo stasera. Vabbè, comunque ci avete ascoltato con le scuse, siamo qui, siamo. Ok, perfetto, lo ascolti ancora fino a Bulldozer. No, ha cambiato radio, ha cambiato. Ma con quanto sta andando lui? Perché io lo ascolto qua, però è un po' basso. Gesù Maria, io non vedo io dopo. Ne vai io veo, devo dare gaide, madonna. E il pocuso uomo che... Non si vuole mandicare più nulla per non esagerare, ma prima mi mandico io sul vero che mandica io primo, e purtroppo la salute bisogna tenerla, hai capito? Mia moglie c'ha il colesterolo altissimo e sa non fare nessun abuso, nessuno, eppure io questo colesterolo la proibita di mandicare curti, di mandicare l'altra cosa, ma sa fretta la salute. Per altezza c'è, però devo raggiungere il bello forma. sera, meno male, mi rimetto il cambio giù avanti. Ok, già. Sì, ero a passeggio. E il Pinocchetto come sente? Diciamo so che non mi sente il Pinocchetto. Sento basso anche a lui, vediamo un po' se ho metto un microfono. Attento Pinocchetto, dimmi se mi ascolti, K. No, non mi senta. Vabbè, già, dai. Vado che ho ancora da fare. Sono appena rientrato, ho acceso, ci sei tu, il Pinocchetto. Però esco di nuovo adesso, vai, ci sentiamo, ciao già. Ok, no, c'era anche il bulldozer e Claudio che si è sentato, che c'era gente in casa, avevo un bel po' parlando. Non so se Massimiliano, l'ho chiamato 3 o 4 volte. Massimiliano, ci sei? E non ce ne messo, vabbè dai, io esco, ciao, ci sentiamo, ciao. Questa sera me la sono presa in giro così, ho fatto delle cose, delle commissioni e poi in giro un po' con la famiglia. E adesso esco di nuovo, dai, sono venuto, ho preso la cosa e poi esco di nuovo, capito? E vado in un'altra casa da parenti. Ci sentiamo, ciao già, salutoni, ciao. Dile per un certo se mi ha sentito, ma non credo, me l'ha risposto, non dirò mal sentito. Ok, perfetto, giù allora, quando ci senti entra, già fa sempre piacere. Sentito vai a Giulio Donna, lo Pinù. Poi ti saluta cordialmente, tocca. Adesso qua non farsi un giretto, hai capito? E niente, non ti ha sentito per giù, Pinù, cioè, magari, hai capito, non è a tutti che ascolta. Ok, perfetto, a dopo se coincide giù. Capito, Pinù? Adesso mi devo anche però allontanare io un attimino che devo andare a chiudere il garage perché è aperto qui non su Eni dove compreso sono da attaccare che cosa hanno da cacchio pure fare già non fa nulla più dentro la fortuna pulito quasi ok ma l'ho lasciato la porta a petro perché avevo dato un po' un secchio a uno dell'impresa che stava finendo un coro vicino alla cassetta della posta e mi pose una massa a terra, non me lo vale master. E non dico che non sei che pure sta mutare mia, lo chi chiede di che era dopo su intro. Mi assento un attimo, vai, magari ci sentiamo dopo fino, lo lascio acceso, E noi non si indigne più né video in né una palla, bisogna qualche volta s'antena del digitale loro, Dimmi che sono stato qua in radio. No, va bene, per me arrivi bene. Ok. Chiedi se mi sento adesso più cento. Ho messo un pochino in porta. Dimmi se mi sento adesso, che domani mi fai la ponte. Adesso lo ascolti a Giulio più. E giù, comunque che microfono c'hai Giulio? Sta detta, Ma la radio adesso con questo dialetto me l'ha rovinata, è sicuro. No, va benissimo, guarda, io ti ascolto al 100%, ti ascolto, diciamo che non la tratta qui. Ok, il segnale com'è così? Prima così e dopo così. Vai, avanti. Ok, guardia dei due Santiago giù, da quasi 9 ne scende vicino al 7. Ok, va bene, va. Ci sentiamo, ciao, ciao, dai che devo uscire, sono venuto un attimo a casa perché devo prendere le cose e devo andare adesso, ciao, ci sentiamo, ciao, ciao, saluto di più. Ok, perfetto, giù, saluto via al cuore, ciao. Gianni Capredone, scusa, ma ci sei ancora, Gianni? Sì, a Massimiliano. Guarda, mi deve scusare, ma è stata un'urgenza di mia figlia, ho dovuto assentarmi quei 5-10 minuti, E non devo avere la buccia da chiudere il garage, vabbè lo chiudo dopo, vai. Ok, perfetto, no, c'è ancora Pinocchetto mi sembra, se non scherzo, ha sentato. Pino a DC. Ok, Pino, 9-10. In questa radio 9 vorrei attaccato. E a momenti in questa roba arrivano segnali fortissimi, arrivano. Segnali fortissimi, anche il QRM arriva fortissimo. E niente, c'è Massimiliano di nuovo, rientrato Massimiliano, avanti Massimiliano. Sì, ma non mi ascolta, già. Non mi ascolta, io sto andando con 10 parte, no, non mi può ascoltare, minimo lui sta andando con 200-300 watt. Sì, e giù lo senti a Pinuccetto? Emiliano, senti a Pinuccetto? Adesso non lo sento più, prima lo ascoltavo, adesso no. Tu va più nuovo, è bene, adesso non ti ascolta Massimiliano. Sì. E perché la posizione, poi, no, qui è favorevolissima, ti ascolto per ascoltarti. Ok, Massimiliano, mi devo assentarmi di baccanaglia, ce l'hai un garage, per forza devo andare a chiudere il garage. Scendiamo dopo, per il momento vado in quel reicchi, e non lo lascio a questo, cioè non c'è niente, però mi dà fastidio, hai capito? Di lasciarlo così. Ok, infatti mi dice non sei chiuso, è mia, mica l'abbiamo trovato. Ok, a dopo ci sentiamo, per il momento vi saluto, un attimino che mi assento. Positivo anche io tanto Gianni, cioè c'è qualche domanda che facciate due passaggi e poi devo mollare del tutto. Ok, a dopo se coincide se no ci sentiamo domani. A dopo, ciao ciao. Ok, Massimiliano, ti saluto allora, io mi stavo a sentare andare a chiudere il garage. E allora se diciamo ti auguro un buon tutto Massimiliano, se ci senti, becca che siamo qui noi, o le 5 e tu, quando ci senti è sempre ben accetto. Io mi sto sentando da poco, adesso però mollo che chiudo il garage, c'è baccanaglia qua di cui devi finire, no? O se chi vuoi siete che ne sei regà con un itro o in bagno, qui noi. E poi alla pelle fra una guida, non è che mi trovo spesso. E lì, chi sa vero, si vive più tra di mano. No, e qua abbiamo finito tutto, non tu mi accado, regalo, tu mi accado. Chi sa vero, che mi si compra le bambole, in un cioccolato, ma sta tutto, a tutto, però devo, una cosa, con un compito, mi sono ubicato, ma mi viene finendo che un morale è vicino a sagacetta della borsa in cui hai buttato a sapere quando non aveva c'è. Mi sono girato, siccome te ho girato con la palla e bacone in alluminio anodizzato, ha fatto dai meda, mutere mia si è lamentata e in tre su mandato non trova diffuso, beh non ha fatto più un buco e su montante le sue lasso con una bontà e otto. Che si è ancora non fittigata? Ha provato, non è che ha provato che qualcuno vado a che i fimi in domo ha tentato di cascinare, ha tanto pigato, no, no, che mi l'ha fatto il salvatore, no, che posso dare, posso condensa, ha provato, che aveva non mi trovato in mano l'uomo, quindi un buco non va a fare di parato a pistola. Non ha fatto cosa